Voci di piccola impresa. Idee di futuro. Di Anna Marino. Benvenuti, questa puntata è dedicata alle idee di futuro sostenibile delle piccole e medie imprese. Ci concentriamo oggi sulle idee sostenibili nel food and wine, grazie alla tecnologia. Per arrivare a un'economia sostenibile senza sprechi, che utilizzi ricicli per una seconda volta i prodotti, è necessario ripensare il modo con cui i beni vengono progettati, infatti, prodotti e commercializzati, ma anche utilizzare il digitale, il web per portare la sostenibilità anche in settori tradizionali come il food e il wine, a partire dal buon mangiare e bere made in Italy. Ed ecco le idee sostenibili di imprese apripista. La prima storia affonda le radici nel passato, ma è attualissima. Fondata a Milano nel 1883 da Francesco Peck, un salumaio originario di Praga, Peck è una realtà enogastronomica in Italia nel mercato europeo del cibo e della ristorazione, per la sostenibilità dei prodotti artigianali e delle materie prime, insieme alla capacità culinaria. Dal flagship store di Milano in via Spadari, a pochi metri dal Duomo, salumi e formaggi, pasta e condimenti, conserve, pasticceria, frutta e verdura fresca, tè e caffè, vini distillati, hanno fatto ancora altri salti verso la sostenibilità del business, aprendosi sul territorio della città e anche, prima dell'emergenza sanitaria, al delivery utilizzando il digitale e piattaforma online. In 135 anni di storia, 5 famiglie sono state al timone di Peck e, nelle parole di Leone Marzotto, la cui famiglia ha rilevato il marchio nel 2013 dalla famiglia Stoppani e che dal 2016 è amministratore delegato, sentiamo l'evoluzione sostenibile in ogni emergenza e per il futuro in un settore tradizionale come quello del food. L'idea che si sta sviluppando è quella di una decentralizzazione della nostra attività. Il famoso negozio di Peck, che è vicino al Duomo, esiste appunto da 130 passanni. Il fil rouge, diciamo, di questi ultimi anni è quello di avvicinarci ai milanesi e quindi di fare uno sviluppo con l'apertura di nuovi punti vendita, in modo tale da, anche con nuove formule di business, in modo tale da appunto essere più vicini alla nostra clientela. Anche perché poi il negozio è un punto vendita fisico. Certo, e poi anche in questo momento è molto importante perché si è sviluppato, c'è stata un'accelerazione del delivery, del cibo a casa, ed è soprattutto un momento in cui la qualità del cibo ha avuto grande rilievo, era già un trend ed è diventato sempre più importante. I vostri cibi sono sostenibili perché hanno una qualità molto alta, non è soltanto il servizio che offrite ma anche la sostenibilità delle materie prime. Assolutamente, noi facciamo dal cioccolato al salato, alle carni, ai formaggi, ai salumi, siamo anche produttori oltre che negozio e quindi abbiamo veramente un know-how a 360 gradi. Ecco, la colina in bocca viene subito. Ecco, voi come avete potuto fare questa svolta di decentralizzazione da una storia che è una storia di un luogo al centro di Milano, un luogo storico, invece vi siete ramificati? Cosa vi ha aiutato? Come vi siete organizzati? Ma guardi, paradossalmente la sfida più difficile è una sfida di racconto, come raccontare questa nascita di piccoli negozi, quindi molto diversi da quello principale, curarne l'identità. Da un punto di vista invece operativo è stata una semplificazione quella di portare in un punto vendita un assortimento necessariamente più ristretto ma più focalizzato su quelli che sono i best seller. Certo, ci sono tutti i settori e tutti i cibi e tutte le scelte possibili immaginabili, dal dolce al salato, al pronto e alla materia insomma prima e verace, però appunto a seconda del luogo in cui vi siete trasferiti avete scelto. Facciamo un esempio. City Life, che è il primo negozio aperto dopo quello di Via Spadari, abbiamo portato 4 linee di business, abbiamo portato il ristorante, l'enoteca, il cocktail bar e ovviamente la gastronomia, che è il nostro core business, e quindi anche la possibilità di vivere il brand in vari momenti della giornata e a 360 gradi. Io compro, faccio la spesa da Peck, ma ci vado anche a mangiare, ci vado a bere un cocktail e faccio una cena raffinata. Ecco, adesso avete aggiunto anche il servizio delivery. Come funziona? Che cosa offrite? Che cosa portate a casa? Il servizio delivery Peck, diciamo, lo ha sempre avuto. Quello che stiamo facendo adesso è affiancare al metodo tradizionale e quindi alla vendita sartoriale al telefono, tramite mail o comunque con un andirivieni, con un rapporto, diciamo, domande di risposta o di più domande più risposte, con un servizio sicuramente attraverso piattaforme di terzi di consegna a breve raggio, pasti piuttosto che di enoteca, piuttosto che di gelato. È un progetto che è in fase di startup, in fase di definizione. Quindi diciamo l'online dedicato ad ogni gusto, questa è una cosa veramente piacevole, oltre che diciamo visto che il virtuale ci distanzia, in ogni caso anche la visualizzazione anche online del cibo, insomma ormai siamo abituati anche alla spesa online, siamo abituati a fare tutto ovviamente virtualmente, fondamentalmente questo è il vostro nuovo modello di business, come pensate di guardare al futuro ora? La base di questo futuro sviluppo è quella di portare avanti una vetrina digitale, prodotti che sono sempre esistiti da PEC, che sono tra i cavalli di battaglia di sempre di PEC, i Mondeghili, il vitello tonnato, l'insalata russa. L'idea è quella di poter arrivare a tutti quotidianamente e frequentemente. Oltre che con l'apertura di punti vendita, come abbiamo fatto con City Life e in via Salvini, Porta Venezia, dove abbiamo aperto una piccola gastronomia di quartiere, un domani che può anche essere molto vicino. Questo potrebbe avvenire anche con Dark Kitchen, potrebbe consentire di aprire rapidamente dei punti di preparazione e servizio di pasti in modo tale da essere più capillare sulla città. La seconda storia viaggia tra l'Italia e gli Stati Uniti all'insegna dell'ottimo vino italiano. Empson & Co. è un importante esportatore in tutto il mondo. È nata nel 72 in un piccolo locale a Milano dalla volontà di Neil, statunitense, e Maria, italoamericana. Dopo la loro luna di miele a Portofino e ora lavora con aziende vitivinicole di tutta Italia. La media annua delle casse spedite negli ultimi 3 anni in tutto il mondo 340.000, 360 container, negli Stati Uniti 230.000, 240 container, un team di esperti fa da ponte con le aziende con servizi di marketing del vino, logistica, pubblicità e comunicazione, collegandole con ristoranti e rivenditori di vino internazionali. La nuova generazione della Empson & Co. oggi si chiama Tara, la figlia di Neil e Maria, CEO dell'azienda, e spiega la sua idea di sostenibilità. Noi siamo una realtà che siamo qui da 47 anni. I miei genitori sono entrambi esteri, mia madre americana e mio padre neozelandese. Si sono conosciuti e sposati, sono trasferiti in Italia e mia madre ha sempre avuto questo grande amore per l'Italia, per l'arte. E quando erano qui hanno scoperto veramente quanto in più poteva dare l'Italia a livello proprio di qualità di cibo, di qualità di stile di vita, di qualità di vino. Sono vini selezionati, dall'Italia arrivano alle tavole di tutto il mondo e anche adesso che diciamo c'è un'emergenza in tutto il mondo, il valore del delivery, il valore del vostro modello di business è rimasto tale, sostenibile anche in questo momento di emergenza e anche per il futuro. Noi collaboriamo con Wine.com e altre grandi piattaforme qua negli Stati Uniti che fanno delivery, l'abbiamo sempre fatto, però la differenza da prima ad oggi è il fatto che comunque anche Wine.com stesso dice: io avevo un tot personale che io assumevo durante il periodo di Natale, durante le grandi festività. Da quando c'è stata la crisi hanno dovuto assumere ed espandere in una maniera talmente esponenziale. I millennial sono loro che stanno acquistando, è diventato Natale tutto l'anno. Certo, il paradosso è che la domanda c'è, la domanda ormai è educata a diciamo questa rivoluzione online, al delivery, l'online delivery. Chi vi ha aiutato a fare questo salto, insomma, a essere così radicati e capillari? Per quanto riguarda l'online, purtroppo è stato anche un salto forzato, perché noi comunque siamo un'azienda molto posizionata verso i rapporti. Effettivamente siamo andati da avere una selezione di vini molto ampia da tutta l'Italia a veramente doverci basare su quello che sono 4-5 scelte che vanno bene sia in termini di volumi che in termini di prezzo. Nessuno in questo momento, o pochissimi in questo momento, vogliono acquistare una bottiglia di champagne e berselo da soli. Zero Briciole nasce nel 2012 come un'azienda di food delivery di alta qualità, anticipando un fenomeno, quello dei pasti a domicilio, che diventerà dilagante negli anni a seguire. Ridimensiona poi il servizio delivery, si trasforma in catering per il mondo della moda, luxury design. Zero Briciole è il prodotto di un team di 10 persone, bizzarro ed eterogeneo, fatto in cucina. Un archi chef, uno chef anglo-ispano rubato a un 2 stelle Michelin milanese, e nel management team vario, designer, sommelier, creativi, ingegneri, bocconiani, eccetera. Il servizio delivery nel periodo di emergenza è stato rilanciato sempre nel segno della sostenibilità dall'ideatrice Martina Camporeale. Zero Briciole è nata nel 2012 E inizialmente il servizio principale di Zero Briciole era proprio un food delivery pensato per uffici. Volevamo prenderci cura della pausa pranzo dei lavoratori. E poi nel tempo ci siamo specializzati nel catering per aziende, come se fossimo, diciamo, un'agenzia di comunicazione gastronomica. Ecco, gastronomia dà l'idea. Noi non possiamo vedere, però possiamo sentire l'acquolina in bocca, pensiero di un'estetica ben curata e soprattutto il nome Zero Briciole fa ben pensare. L'idea è nata da una briciola, sono una persona che mangia mentre lavora, e quindi le briciole sono in qualche modo nemiche delle tastiere e della tecnologia, e volevamo pensare inizialmente a un pasto che non lasciasse briciole, sia perché totalmente spazzolato, sia perché fosse funzionale al momento del pasto in ufficio. Quindi noi abbiamo inventato dei prodotti studiandoli anche dal punto di vista dell'ergonomia e della del prodotto. Quindi il nostro risotto alla milanese è a forma di gelato, è montato su uno stecco, sembra un mottarello e si mangia comodamente in pochi morsi. O la torta Tucker si è trasformata in un chupa chupa. L'appetito viene mangiando e credo che in una pausa pranzo si consumino in fretta. E però avete saputo anche reinventarvi. Ovviamente la sostenibilità dipende anche dal fatto che non ci sono sprechi, siete stati molto attenti anche in questo periodo di emergenza sanitaria, avete avuto l'idea di reinventarvi. Come? Abbiamo più di 30 piatti che si possono prenotare e assaggiare, delle cose appunto pronte da mangiare, sempre stile Zero Bricelesco, e altri piatti invece da finire per chi ancora, diciamo, ha voglia di cucinare e stare ai fornelli.